Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Gli ho chiesto, ma ho concordato subito col comandante generale, massima severità, massima celerità, anche senza attendere gli esiti finali giudiziari. Questa, care ascoltatrici, cari ascoltatori, l'ultima dichiarazione della ministra della difesa Pinotti sulla vicenda degli stupri di Firenze di cui sono accusati due carabinieri. Insomma, dice assolutamente la sospensione non può bastare, sono stati sospesi dall'arma per il momento, ci vogliono pene severissime. Roberta Giordano con voi, ieri vi ha sostituita la collega che ringrazio, Anarita D'Ambrosio, e non faccio in tempo a darvi così le notizie di pochi istanti fa. Ne appare immediatamente adesso un'altra, un flash dell'ultima ora, operazione antiterrorismo a Barcellona, evacuata la stazione vicino alla Sagrada Famiglia. Insomma, non si può mai stare tranquilli, diciamo, no? È un mondo dove evidentemente molti uomini si annoiano e, non sapendo cosa fare della loro vita, pensano e stanno lì a ingegnarsi come straziare le vite altrui. Comunque, seguiremo per voi gli eventuali sviluppi di questa notizia. Per ora c'è soltanto un titolo. E invece stasera parleremo di molte altre cose, parleremo per esempio di vaccini, visto che oggi, in questi giorni, insomma, stanno cominciando a aprire i nidi, le scuole d'infanzia, e già ci sono stati degli episodi piuttosto spiacevoli di bambini respinti, poi sono intervenuti i carabinieri. Insomma, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, c'è un po' di caos, c'è un po' di preoccupazione, continuano le polemiche, vediamo un po' quali sono le norme alle quali attenersi, sia per quanto riguarda i genitori, sia per quanto riguarda i dirigenti scolastici. E poi, tra le altre cose, anche della tragedia di Pozzuoli, l'avete sentito, lo ricorderò anche nei titoli, queste tre persone che sono morte, un bambino e i suoi genitori, nella Solfatara. Ma ci sono le protezioni giuste in questi luoghi di attrazione turistica oppure no? Ne parleremo anche col sindaco di Pozzuoli direttamente. Per i vostri commenti, per le vostre opinioni, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio giorno e notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp, quindi SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Le notizie sono tante, ne arrivano anche di nuove, quindi parto subito con la sintesi della giornata. Tragedia a Pozzuoli, tre morti nella Solfatara, padre e madre cercavano di salvare il figlio di 11 anni scivolato in un cratere di fango bollente. La procura di Napoli apre un'inchiesta. La promoter è scomparsa, ha trovato il cadavere decapitato della donna 58enne, lo conferma il procuratore, era sepolto nell'orto dell'indagato. Gli stupri di Firenze, accanto anche il secondo carabiniere è sentito in procura, la ministra Pinotti dice la sospensione non basta, non ci sono attenuanti. Livorno, trovata l'ottava vittima del nubifragio, un uomo di 67 anni dato per disperso. Il sindaco Nogarin sottolinea, i tagli ai bilanci ci hanno messo in ginocchio. Vaccini, non si placano le polemiche, tante richieste dell'ultimo momento alle ASL, e caos nelle scuole dove alcuni bambini restano fuori perché non in regola. Corea del Nord, Seul spaventa Kim preparando una task force per ucciderlo, lo riporta il New York Times. Rambo, sudcoreani saranno operativi entro fine anno. Politica, salta anche il voto sullo Ius Soli, la maggioranza non c'è intanto in vista delle elezioni, intesa tra Pisapia e MDP, problemi invece in Sicilia per il candidato del Movimento 5 Stelle. Calcio in Champions, doppia sfida Italia-Spagna con in campo Juventus e Roma. Quindi, come vi dicevo, questa notizia è un flash, come si dice, dell'ultima ora, di pochissimi istanti fa, ve la ripeto, un'operazione antiterrorismo a Barcellona, dove sapete appunto c'è stato quel terribile attentato in agosto, è stata evacuata la stazione vicino alla Sagrada Famiglia, questa chiesa bellissima che è un po' anche il simbolo di Barcellona oltre alle Ramblas. E poi parliamo della tragedia intanto di Pozzuoli, sono in corso indagini per conoscere i dettagli dell'incidente mortale avvenuto oggi nella Solfatara in cui hanno perso la vita un bambino di 11 anni e i suoi genitori. Sono stati estratti dai vigili del fuoco i corpi senza vita delle tre persone cadute all'interno del cratere della Solfatara di Pozzuoli. Le vittime appartengono alla stessa famiglia, il padre aveva 45 anni, la madre 42 e uno dei figli 11 anni. L'altro bambino di 7 si è salvato. Sono ancora in corso i rilievi sul posto dove pare fosse stata segnalata una voragine ed anche delimitata. Voragine che, secondo un'ipotesi, si potrebbe essere aperta nel terreno terreno non solido, probabilmente a causa delle intense precipitazioni dei giorni scorsi. È questa l'ipotesi che Francesca Bianco, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, fa sulla tragedia avvenuta nel vulcano della Solfatara. Ed è anche possibile che la voragine si sia allargata quando il bambino di 11 anni si sarebbe avvicinato troppo all'area a rischio e i genitori avrebbero provato a riprenderlo, cadendo nell'area in cui sono forti le esalazioni di gas. Il bambino di 7 anni è stato affidato alle assistenti sociali in attesa dell'arrivo dei parenti. Laura Vigiano, Radio 24, Sole 24 Ore, Napoli. E poi, come vi dicevo, nel corso di Effetto Notte dovremo raggiungere un testimone che ha assistito a questa sciagura e poi anche il sindaco di Pozzuoli. Un'altra notizia arrivata poco fa, a parte questa di Barcellona, adesso vedo un aggiornamento su Barcellona, i media iberici dicono che c'era un veicolo sospetto, la cattedrale era tra gli obiettivi della cellula che ha colpito sulle Ramblas il 17 agosto scorso. Notizia invece della cronaca italiana, che è arrivata poco fa, è che il cadavere decapitato di Marilena Rosa Re, 58 anni, la promoter di Castellanza, vicino Varese, scomparsa lo scorso 30 luglio, è stato ritrovato sepolto nell'orto di Vito Clerico, il 65enne di Garbagnate Milanese, vicino Milano, fermato ieri per l'omicidio e l'occultamento del cadavere. Quindi si tratta dell'ennesimo femminicidio. Lo ha spiegato ai giornalisti il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio. Era stato lo stesso 65enne a indicare agli inquirenti il punto dove scavare. E siamo agli stupri di Firenze. L'arma potrebbe costituirsi parte civile nell'eventuale processo contro i due carabinieri accusati dello stupro di due giovani americani. La ministra della Difesa chiede il massimo della severità mentre prosegue l'indagine della Procura di Firenze. Si è presentato in procura nel primo pomeriggio e ha dato anche lui la sua versione sulla notte di Firenze, per la quale è direttamente il ministro della difesa ad invocare le risposte più severe. Interrogatorio di un paio d'ore per il secondo carabinieri accusato di aver partecipato allo stupro di due giovani americane mentre era in servizio. Senza aspettare di essere convocato, Pietro Costa, 32 anni, si è fatto avanti accompagnato dal difensore, come già aveva fatto l'altro collega del nucleo radiomobile, Marco Camuffo, di 46. Agli atti dei PM c'era già la prima versione dell'appuntato, che ha ammesso il rapporto sessuale ma negato ogni violenza, e in queste ore i magistrati di Firenze stanno anche aspettando gli esiti degli esami tossicologici per verificare se e quanto le ragazze fossero ubriache, quindi in grado davvero di comprendere quello che avveniva. Ma all'indagine della procura si affianca quella interna dell'arma, che per ora ha già sospeso i due carabinieri, ma penso si debba andare oltre, anticipa il ministro della difesa. Sono state fatte cose gravissime e non ci sono attenuanti, taglia corto Roberta Pinotti. La proposta più severa possibile potrebbe essere la perdita del grado, cioè il licenziamento. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi aggiornamenti dal nubifragio di Livorno. È stata trovata nella città toscana, colpita dalla bomba d'acqua, come si dice, l'ottava vittima, Gianfranco Tampucci, di 67 anni, portato via dalla piena del fiume mentre tentava di salvare la sua cagnolina. Il corpo dell'uomo era a pochi metri di distanza dall'argine del rio Ardenza a Livorno. Si teme tra l'altro l'arrivo di altri temporali nel fine settimana. E poi il tema dei vaccini. Sulla prevenzione vaccinale è corsa contro il tempo, con tantissime richieste dell'ultimo momento inoltrate alle ASL, caos nelle scuole dove alcuni bambini, per esempio a Milano e a Roma, restano fuori. I genitori in alcuni casi, come quello di Latisana vicino Udine, e poi risolto con la riammissione, addirittura hanno chiamato i carabinieri. Intanto la ministra Lorenzin nega che ci sia una situazione di caos e parla di singoli episodi, però è insomma abbastanza palese che bisogna fare ancora un po' di chiarezza sul tema. E quindi nel corso di Effetto Notte raggiungeremo il sottosegretario all'istruzione De Filippo. E siamo alla politica. Sì, dell'aula della Camera al disegno di legge Fiano, che inserisce nel codice penale il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Il testo approvato a Montecitorio con 261 sì, 122 no, 15 astenuti, ora passa al Senato. Sempre per la politica, Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle, pronto a candidarsi come premier, dice se lo vorranno gli iscritti, ma a poco meno di due mesi dalle regionali in Sicilia, cioè il prossimo 5 novembre, tegola per il Movimento 5 Stelle, perché il Tribunale di Palermo ha sospeso la validità e gli effetti delle regionarie e delle consultazioni online che hanno incoronato Giancarlo Cancelleri. La sinistra intanto ha trovato il suo leader, Giuliano Pisapia, che è stato incoronato da Bersani al termine dell'incontro tra i dirigenti di campo progressista e MDP. ne parleremo nel corso di Effetto Notte tra poco. Intanto, nuovo e forse definitivo stop per lo Ius Soli per tutto il mese di settembre. Il relativo disegno di legge non compare nel calendario dei lavori dell'Aula del Senato. Per il capogruppo del PD Luigi Zanda è un provvedimento importante, per ora però la maggioranza per approvarlo dice non c'è. E poi, per quanto riguarda il terrorismo, visto che parlavamo di Barcellona, il livello di attenzione in Italia contro il terrorismo è alto, ma non ci sono al momento evidenze. Questo si apprende da fonte parlamentare, avrebbe detto Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio, durante l'audizione al COPASI, al Comitato Parlamentare per il Controllo dei Servizi Segreti. Buone notizie adesso sul fronte del lavoro. L'Istat segnala nel secondo trimestre un calo dei disoccupati dopo 3 trimestri di crescita. Aumenta il numero di chi lavora, con il tasso di disoccupazione che scende nel secondo trimestre dell'anno al 10,9%, livelli questi che non si vedevano da 5 anni. La crescita è trainata dai contratti a termine e riguarda tutte le fasce d'età, ma non quella dei giovanissimi, ossia tra 15 e 24 anni, che è l'unica con segno negativo. Buone notizie per l'occupazione femminile: aumenta per il quarto trimestre consecutivo, raggiunge il 49,1%, ma in ambito europeo rappresenta ancora la penultima posizione. Fa peggio di noi solo la Grecia. Le ore complessivamente lavorate, spiega ancora l'Istat, crescono dell'1,4% sull'anno, confermando l'elevata intensità occupazionale della ripresa. Sul lavoro c'è ancora molto da fare, ma i dati sono incoraggianti, commenta il presidente del Consiglio Gentiloni. Quanto ai giovani, ricordano fonti del governo, Palazzo Chigi punta di inserire nella prossima legge di bilancio un taglio del 50% dei contributi. Cauti i sindacati, che parlano di segnali positivi, restano centrali, spiegano però dalla CISL, le politiche attive per orientare lavoratori ed imprese. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci adesso all'estero con alcune notizie, per esempio gli aggiornamenti sull'uragano Irma, che ha lasciato circa 17.000 persone senza tetto, che hanno un disperato bisogno di un alloggio, ha devastato ospedali, cliniche nelle isole dei Caraibi orientali. A lanciare l'allarme è l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dopo il suo passaggio sui Caraibi e sulla Florida, Irma ha provocato almeno 40 morti, secondo le autorità locali, e facendo il punto generale, l'OMS ha parlato di una grave situazione sanitaria nelle isole più colpite, con molti ospedali e cliniche parzialmente o completamente distrutti. Per quanto riguarda la Corea del Nord, Seoul, la Corea del Sud, spaventa Kim Jong-un e sta lavorando, pare, per costruire e addestrare entro la fine dell'anno una task force delle forze speciali chiamate Decapitation Unite, il nome dice tutto, il cui obiettivo è proprio quello di uccidere il leader nordcoreano. Lo scrive il New York Times, spiegando che l'unità avrà le dimensioni di una brigata, dunque almeno 1.500 uomini che agiranno col supporto di elicotteri e aerei da trasporto per penetrare nella Corea del Nord e lanciare raid notturni. Di nuovo in Italia, parliamo della chikungunya. Ne abbiamo parlato giorni fa, di questa malattia portata dalle zanzare, con i primi casi ad Anzio. Sono saliti a 13 i casi di questa malattia accertati e verificati dalla SERESMI, che è il sistema regionale sorveglianza malattie infettive. Per monitorare la situazione ed assumere le iniziative necessarie, è in programma domani mattina in Regione Lazio una riunione operativa con i responsabili del Centro Nazionale Sangue e del Centro Nazionale Trapianti. Una notizia che riguarda i tatuaggi, che sono molto alla moda, molto apprezzati, però d'ora in poi forse non basterà per renderli sicuri solo controllare che siano rispettate le regole igieniche, perché l'insidia questa volta arriva dagli inchiostri, che possono liberare minuscole particelle capaci di viaggiare nel sangue. Le ha viste per la prima volta il più potente dei microscopi, ossia la luce di sincrotone, pubblicata sulla rivista Scientific Reports. La scoperta si deve all'Istituto Federale Tedesco per la valutazione dei rischi. Le particelle osservate hanno le dimensioni di un milionesimo di millimetro. Una volta entrate nel sangue, viaggiano fino a raggiungere i linfonodi, vere e proprie sentinelle delle difese immunitarie. Le conseguenze non sono ancora chiare, però al momento è stato osservato un rigonfiamento cronico dei linfonodi. Per chiudere, parliamo di smartphone. A Cupertino oggi la cerimonia evento nel nuovo campus della Silicon Valley per la presentazione del primo iPhone, con un costo di almeno $1.000. L'iPhone del decennale, tutto nuovo per contrastare l'avanzata di Samsung e Huawei. L'iPhone X, l'ultimo nato in casa Apple, si basa, pensate, sul riconoscimento facciale per effettuare tutte le maggiori funzioni del telefono. Ora sentiamo da Giovanni Capuano, che non so che cellulare ha non importa, l'importante è che si senta bene, caro Giovanni, per capire che cosa sta succedendo con le due italiane che sono impegnate in Champions League questa sera. Giovanni, sentiamo. Sì, costa meno di $1,000, carissima Roberta. Meno di $1,000, sì, hai ragione, scusa. Auguro, sì. Mi auguro si senta in maniera sufficiente. Dunque, siamo intorno alla mezz'ora, a Barcellona e a Roma, perché questa è una grande notte di Champions League. I due risultati sono entrambi di 0-0, ma sono partite che stanno raccontando molto. Allora, partiamo da Barcellona, dove è una buona Juventus. Il Barcellona tiene molto palla, ma è stata la Juventus a rendersi molto pericolosa nel primo quarto d'ora con De Sciglio, Dybala e Pjanic, costringendo in un paio di occasioni il portiere del Barcellona Ter Stegen a due interventi anche complicati. Il Barcellona è stato pericoloso al 20° e Buffon è stato chiamato a una grande risposta su Suarez, che ha ribattuto dopo una punizione di Messi che era stata respinta dalla barriera. Juventus che ha clamorosamente De Sciglio in campo rispetto a quello che si attendeva alla vigilia, fuori Rugani, Barzagli è stato spostato centrale. Per quanto riguarda invece Roma-Atletico Madrid, che è una partita davvero fondamentale perché nel girone c'è anche il Chelsea, risultato 0-0, Roma che ha pagato lo scotto all'inizio, nei primi 15 minuti l'Atletico Madrid è andato due volte vicinissimo al gol, prima con Saúl che ha addirittura accarezzato il palo alla destra del portiere della Roma Alisson e poi con Vietto. Negli ultimi minuti la Roma sta alzando il baricentro e al 17° ha avuto anche una buona occasione con De Frel, una conclusione di prima e palla però fuori dalla porta. Gli altri due risultati del girone, il Chelsea si sta battendo 2-0 il Karabag, questo è per quanto riguarda il girone della Roma, mentre nel girone della Juventus lo Sporting Lisbona sta vincendo 2-0 in Grecia in casa dell'Olympiacos. Grazie caro Giovanni, mi pare di aver capito un tuo interesse per questo cellulare di cui si parlava, forse magari sei interessato a comprarlo. Comunque ci sentiamo più tardi per capire come procedono le due italiane Juventus e Roma in questa serata di Champions League. Intanto ci fermiamo in modo che voi possiate raccogliere i vostri pensieri. Tra pochissimo parleremo di politica, di una certa intesa che è stata raggiunta nel centro-sinistra, di una tegola, come si dice, si legge dei titoli sul Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le regionali in Sicilia, lo stop dello Ius Soli e poi parleremo di vaccini, molti altri temi per i vostri interventi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure per WhatsApp ed SMS il 349-238-6666. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che vi ho raccontato in queste sintesi della giornata. Come sempre, non perdete mai l'appuntamento alle 21 puntuali con Effetto Notte per essere costantemente aggiornati alla fine della giornata sulle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Roberta Giordano con voi. Tra poco, se non avete acceso all'ora in cui dovreste accendere, vi ricordo quali sono i titoli in primo piano e poi tra poco cominceremo ad approfondire i vari temi con gli ospiti. Quindi andiamo prima di tutto, mentre vi ricordo che per i vostri interventi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS 349-238-6666, vi ricordo i titoli principali. Notizia di pochissimo fa, vi dicevo, a Barcellona, un'operazione antiterrorismo, evacuata la Sagrada Famiglia e la stazione della metropolitana, che è proprio lì vicinissima. E poi le altre notizie, Ius Soli, è quasi un addio, il disegno di legge, Zanda del PD dice non c'è una maggioranza per il momento. Intanto Di Maio del Movimento 5 Stelle si dice pronto a fare il premier, mentre la sinistra incorona come leader Pisapia. Questa è la sintesi di quello di cui parleremo tra pochissimo. Poi la battaglia dei vaccini che va avanti, le polemiche, bambini oggi all'apertura di nidi e scuole d'infanzia, alcuni esclusi, poi riammessi, insomma continuano un po' le tensioni, cercheremo di fare un po' di chiarezza. Poi questa tragedia nella solfatara di Pozzuoli, genitori e un figlio nel fango bollente, padre e madre inghiottiti nel tentativo di salvare il bambino undicenne. C'è un calo dei disoccupati al 10,9%, il presidente del Consiglio Gentiloni dice molto bene, ma c'è ancora da fare. Poi per l'Ocse l'Italia è maglia nera per la spesa pubblica nell'istruzione. Sul trattato di Schengen, quindi la libera circolazione delle persone in Europa, Francia e Germania cominciano a chiedere una nuova Schengen, no? Che ci sia più elasticità per i controlli. E poi questa notizia di cronaca cronaca che è arrivata poco fa, la promoter di 58 anni di Castellanza, vicino Varese, che era scomparsa il 30 luglio, è stata trovata il suo cadavere decapitato dentro l'orto dell'indagato, dell'unico indagato, un 65enne. E poi trovata a Livorno l'ottava vittima. Il sindaco Nogarin dice: troppi tagli ci hanno messo in ginocchio, hanno messo in ginocchio la città. E alla fine le due partite di Champions con Juventus e Roma contro la Spagna, e poi iPhone che svela il cellulare del decennale nel segno di Jobs. La politica, quindi, dicevamo, la politica italiana, con le mosse prima di tutto nel centrosinistra in vista delle elezioni politiche di primavera, ancor più che in quelle di Sicilia, pare si sia trovata l'intesa tra MDP, cioè i fuoriusciti dal PD, Movimento Democratico Progressista, e Campo Progressista di Pisapia, ex sindaco di Milano. Anzi, sembra addirittura che la sinistra abbia proprio trovato il suo leader. Vogliamo sentire che cosa dice Smeriglio di MDP? Non esiste al mondo, il leader è Giuliano Pisapia. Le primarie sono strumento serio che serve quando fai le coalizioni per decidere i premier o i segretari di partito. Noi stiamo facendo un'operazione a 4 mesi dalle elezioni, non c'è nessuna coalizione perché purtroppo c'è una pessima legge elettorale. Provo di legge elettorale, poi ne continueremo a parlare. Ma cosa ne pensa Pisapia, che è uscito appunto oggi da questo incontro tra il suo campo progressista e MDP? Un incontro utile, propositivo, consonanza di opinioni, di obiettivi, di percorso. Abbiamo fatto un importante passo avanti. E poi sentiamo anche Roberto Speranza, uno degli esponenti più in vista di MDP, che parla di un'alternativa di sinistra al PD. Continua il percorso di costruzione di un centrosinistra capace di battere le destre, i populismi, e alternativo alle politiche sbagliate del PD di Renzi. Noi lavoriamo perché ci sia un grande momento di partecipazione popolare, perché un processo del genere non si può consumare solo nel chiuso di una stanza, ma ha bisogno di un popolo, e crediamo che sia indispensabile anche aprire questa interlocuzione, coinvolgere in questo processo tutte le altre forze civiche e politiche che hanno voglia di costruire un campo alternativo. Saluto la nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore, commentatrice politica. Cara Emilia, buonasera. Bentrovata. Buonasera. Quindi, insomma, ha finalmente incoronato il leader del centrosinistra, c'è questa intesa definitiva tra Movimento Democratico Progressista e Campo Progressista? Io ci andrei molto cauta. Perché a Bersani è stato chiesto: mai Pisapia è leader? Lui ha detto sì, certo, e tuttavia insomma ci sono molte resistenze, nel senso, più che la leadership, a dividere sono proprio le politiche, quindi i bersaniani sono propensi a accettare Pisapia come leader se segue le loro politiche. Il punto è sempre il rapporto con il PD di Renzi e con il governo Gentiloni. Pisapia ha in mente la costruzione di una gamba di sinistra il più solida possibile, in modo da spostare a sinistra l'asse del centro-sinistra con il PD. Quindi una gamba attaccata al PD, diciamo, che lo sposta verso sinistra. Sì, per spostarlo. Mentre Bersani, D'Alema, Speranza sono più per costruire una sinistra del tutto alternativa al PD di Renzi, insomma. Finché c'è Renzi, ha detto più di una volta D'Alema, non possiamo allearci con lui. E addirittura Bersani ha evocato, dopo il prossimo voto politico, un possibile appoggio al Movimento 5 Stelle se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere. Quindi non sono differenze di poco conto. Il punto lo dice bene Smeriglio, che è in realtà un uomo molto vicino a Pisapia, il braccio destro di Pisapia a Roma. Lui dice: stando la legge elettorale così com'è, cioè che non ci sono le coalizioni, noi siamo costretti a stare insieme, no? Per superare la soglia del 3% e per creare appunto un partito che abbia poi una voce in capitolo della formazione del governo dopo le elezioni. Quindi è più un meccanismo che sembra appunto costringerli a stare insieme, ma al momento questi nodi politici non sono stati sciolti. Il primo test sarà proprio la legge di bilancio. perché Pisapia ha consigliato oggi, in questo mega alert c'erano 20 persone presenti, ha consigliato di fare alcune proposte ragionevoli al governo Gentiloni, sedersi a un tavolo in modo che il governo possa prenderne una o due, no, e metterle nella legge di bilancio. Ma l'intenzione di Pisapia è non rompere su questo. Mentre MDP, cioè la formazione dei bersaniani, è più di lotta in questo senso, cioè vuole fare delle proposte in contrasto, quindi con più in contrasto, ad esempio PD. Parlano di correggere il Jobs Act, no? Che è il fiore all'occhiello delle politiche renziane, quindi per l'attuale PD una richiesta inaccettabile, e sembra che siano tentati di approfittare del no che riceveranno per strappare. Quindi diciamo che poi la legge di bilancio sarà un po' un test, ma soprattutto appunto è il nodo è il rapporto con il PD. Pisapia come Prodi, che molti danno in questo momento attento alle mosse di Pisapia, immagina un centro-sinistra vecchio stile con una sinistra però che interloquisce con il PD, che è considerato più di centro. Non immagina una sinistra alternativa e votata in caso a stare all'opposizione pur di non stare col PD, come sembrano immaginare i fuoriusciti. D'altra parte è anche normale, quando uno c'è una scissione che è stata abbastanza traumatica e poi vuole è rompere, difficile dopo pochi mesi rifare l'alleanza sia da una parte che dall'altra, insomma, quindi è naturale, insomma. Emilia, quindi invece le cose non sono ancora risolte, vedremo. Nulla di definitivo, staremo a vedere anche appunto, come dicevi, con la legge di bilancio. Invece, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Di Maio si lancia ufficialmente pronto a fare il premier nel caso il Movimento 5 Stelle vincesse le elezioni politiche, anche se è vero che Di Battista e altri ogni tanto rispuntano fuori, dicono ma non è definitivamente così anche in questo caso, però sentiamo Di Maio che cosa ha detto. Personalmente ho sempre detto, se i nostri iscritti vorranno individuare me come candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri per il Movimento 5 Stelle, ci sarò. Ovviamente faremo quelle che sono le votazioni per i nostri iscritti nelle prossime settimane, poi tra il 22 e il 24 settembre, perché sono tre giorni, a livello nazionale, proclameremo questo nome. Dicevo, non sarà un'incoronazione, un'investitura. Emilia, hai sentito Di Maio lanciato, però c'è un problema per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle in Sicilia, dove si terranno le elezioni il 5 novembre e dove sembrava che forse la posizione del Movimento 5 Stelle fosse quella più solida, nel senso che il centrodestra ha avuto vari tir e molle, il centrosinistra non ne parliamo, però pare che il Tribunale di Palermo abbia sospeso le regionarie, le cosiddette consultazioni, le consultazioni online, no, del Movimento 5 Stelle a cui è abituato, con cui il Movimento, gli iscritti hanno incoronato appunto Giancarlo Cancelleri, perché c'è stato il ricorso di Mauro Giulivi che dice io ero candidato, mi hanno fatto fuori con un pretesto dicendo che io non ho firmato il codice etico. Quindi cosa si prospetta adesso? Sì, un codice etico che sembra contenesse alcune clausole contrattuali, no? Un po' come quelle che sono state fatte firmare ai candidati a Roma, insomma, un risarcimento se si dovesse cambiare partito, queste cose qui. Ma si prospetta il 18 settembre, intanto c'è di nuovo, no, la seconda puntata di questa causa, però insomma Grillo ha detto noi ci saremo comunque. Cancelleri è ormai in campagna elettorale da molte settimane, quindi e sta andando bene, insomma, uno che piace, è difficile pensare che ci sia un cambio, ecco, o le rifanno queste parlamentari oppure insomma, quello che il Tribunale ha messo in discussione è proprio il meccanismo poco trasparente di scelta, no, del candidato, ma ricordiamo non è che sia obbligatorio, cioè i candidati possono scegliere anche i partiti senza fare nessuna consultazione, quindi io penso che rimarrà in campo Cancelleri, troveranno qualche scamotaggio, si rifanno le primarie, Quindi nulla di drammatico, insomma. Nulla di drammatico. Tuttavia, questo mette in evidenza un punto di forte debolezza del Movimento 5 Stelle, che è quello della democrazia interna. Appunto, ripeto, non c'è bisogno di fare le primarie. Nel centrodestra ha sempre deciso Berlusconi, non si sono mai fatte, eppure insomma nessuno ha mai impugnato questo davanti a un tribunale. Ma nel momento in cui le fai devono avere un criterio di trasparenza, insomma. Chiaro. Quindi è un pochino una via di mezzo, che vogliono fare queste primarie su internet, però poi alla fine chi decide sono i leader, come è normale in tutti i partiti, portando di fatto a un pasticcio, insomma. Però ecco, detto questo, più una riflessione che dovrebbe fare il Movimento 5 Stelle sul darsi delle regole più di trasparenza democratica, proprio se aspira a fare il premier, come dice Di Maio, ma non credo che avrà conseguenze sulla candidatura Cancelleri, che sta andando bene, insomma ormai è troppo tardi per cambiare. Effetti. Allora faccio sentire per chiudere questo nostro incontro, questa nostra chiacchierata, Emilia Patta, la russa di Fratelli d'Italia a proposito del sì dell'Aula della Camera al disegno di legge Fiano che inserisce nel codice penale italiano il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, che è passato oggi alla Camera e poi ora deve passare al Senato. Vogliamo sentire che cosa ha detto la russa oggi alla da Camera? Da ora in poi state attenti ad alzare la mano oltre la spalla, state attenti a mettere le mani sui fianchi, state attenti a camminare con la gamba alzata orizzontalmente. Quando camminate, state attenti ad accentuare il mento. Se voi accentuate il mento, potete essere passibili di 2 anni di galera, perché l'accentuare il mento richiama certamente quel mostro che fu Benito Mussolini. Vergogna! Attenzione al mento, quindi. Grazie Emilia Patta, ci sentiamo nei prossimi grazie, giorni. Buonasera. Grazie Emilia. Ora invece c'è il nostro Sergio Nava che ci aggiorna sulla notizia che avevo dato all'inizio, che era proprio un flash di una riga su Barcellona. Sergio? Sì, allora ti riferisci ovviamente, Roberta, all'allarme terrorismo di questa sera intorno alla Sagrada Famiglia di Barcellona. Secondo il quotidiano L'Avanguardia, pochi istanti fa si sarebbe trattato di un falso allarme. Fortunatamente, quello che possiamo dire è che i Mossos de Squadra, cioè la polizia autonomica catalana, ha isolato 3 vie intorno alla Sagrada Famiglia per un furgone sospetto. C'è anche chi dice che l'allarme sia arrivato dalla Francia. In questo caso c'è stato un controllo col TEDx per vedere se c'erano esplosivi a bordo e si è anche verificato cosa ci fosse a bordo. Secondo appunto L'Avanguardia, l'allarme sarebbe stato falso. Ricordiamo anche che sta giocando Barcellona-Juventus stasera, ci sono molti italiani quindi nella capitale catalana. E poi l'attentato, la strage del 17 luglio, quindi insomma la tensione. Resta alto l'allerta, il livello di allerta terroristica a livello 4, quindi è una città ancora chiaramente molto molto molto attenta a evitare episodi di questo tipo. Tra l'altro ci sono code, si segnalano code molto forti proprio nella circondario della città catalana, proprio a causa di questi controlli. Ci sono state forti ripercussioni sul traffico. Grazie Sergio Nava, per fortuna quindi un falso allarme per una volta. Intanto prima di lasciarvi, ma proprio per pochi istanti, poi ci sentiamo tra poco, notizia di adesso: Hillary Clinton dice non correrò più per la presidenza, quindi sostenitori di Hillary, sappiatelo, sostenitrici anche molte. 349-238-6666 per i vostri messaggi o WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momenti. 57° Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Allora abbiamo parlato di varie notizie, abbiamo parlato di politica, aggiornato su Barcellona che per fortuna pare un falso allarme con l'operazione antiterrorismo che si è fatta poco fa alla Sagrada Famiglia, alla cattedrale della Sagrada Famiglia. Allora procediamo con gli altri argomenti da approfondire. Intanto ringrazia chi dice che in questi giorni ho trattato la notizia riguardante le studentesse americane e carabinieri con un certo equilibrio. In realtà ho semplicemente dato le notizie che si hanno e non quelle che non si hanno, e ho fatto sentire anche le dichiarazioni piuttosto forti sin dal primo momento della ministra della difesa Pinotti. Poi Gianfranco invece, a proposito della notizia di poco fa che Hillary Clinton ha annunciato che non correrà più per la presidenza degli Stati Uniti, lui ci speriamo corra Michelle Robinson, moglie di Barack Obama, grande donna, grande carisma, e poi dice la Casa Bianca la conosce già. Mentre un altro ascoltatore, Matteo di Milano, ringrazio anche lui per i complimenti eccetera, dice non è che rispunta la riforma della legge elettorale. Caro Matteo, sì, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, lo so che è una noia per voi, ma è con quella che poi si deve andare a votare. Adesso però parliamo tra pochissimo della questione dei vaccini, che ancora suscita polemiche, polemiche politiche, tensioni, eccetera. Cercheremo di fare un po' di chiarezza, visto che stanno aprendo nidi e scuole per l'infanzia, bisogna capire un po' quali sono le cose da fare. Vi ricordo, se non avete acceso puntualmente, anche quali sono le notizie principali della giornata. Tragedia a Pozzuoli, 3 morti nella solfatara, padre e madre cercavano di salvare il figlio undicenne scivolato in un cratere di fango bollente, la procura di Napoli apre un'inchiesta, ne parleremo anche di questo nel corso di Effetto Notte. Poi avete sentito appunto il falso allarme per un rischio di attentato a Barcellona alla cattedrale della Sagrada Famiglia, la promoter scomparsa, lo scorso 30 luglio è stato trovato il cadavere decapitato della donna di 58 anni, lo conferma il procuratore, era sepolto nell'orto dell'indagato che sarebbe il vicino e ex amico della donna. Gli stupri di Firenze, anche il secondo carabiniere è stato sentito in procura, la ministra Pinotti, come avete sentito, dice la sospensione non basta, non ci sono attenuanti. Livorno, trovata l'ottava vittima del nubifragio, un uomo di 67 anni dato per disperso. E poi per i vaccini ne parleremo tra pochissimo. Corea del Nord, la Corea del Sud spaventa il dittatore Kim preparando una task force per ucciderlo, lo riporta New York Times. Della politica abbiamo parlato ampiamente con la intesa trovata per il momento tra Pisapia e MDP, mentre ci sono problemi in Sicilia per il candidato del Movimento 5 Stelle, ma pare che insomma saranno risolvibili. Per il calcio vi aggiorno adesso sui risultati, ci sono le due italiane in Champions League, Juventus e Roma, vediamo a che punto sono. Dunque, allora, Barcellona-Juventus 1-0 per il Barcellona al momento e Roma-Atletico Madrid ancora 0-0. Dicevo, torniamo a parlare dei vaccini mentre aprono i nidi le scuole d'infanzia. In questi giorni si assiste a qualche episodio spiacevole, oltre a questo proseguire di polemiche, di tensioni, come era inevitabile, prevedibile questo momento di caos e di confusione. Ci sono stati episodi appunto legati soprattutto magari al non sapere fino in fondo quali sono le norme alle quali attenersi, come mettersi in regola con i propri figli. Ieri, vi ricordo, scadeva il termine per mettersi in regola con le vaccinazioni obbligatorie dei bambini che vanno ai nidi e alla scuola d'infanzia. E poi un po' legata a questa situazione di tensione anche a tutte le polemiche che hanno fatto seguito al decreto Lorenzin. Per esempio a Milano sono 19 su 33.000 i bambini che oggi sono rimasti fuori da asili e nido del Comune di Milano perché non in regola, è stato comunicato proprio da Palazzo Marino questo dato. E poi ha fatto particolare clamore il caso di una bambina in una scuola materna a Milano in via Goldoni, dove la preside ha invitato una coppia di genitori a riportare la bambina di 3 anni a casa. Loro hanno chiamato i carabinieri, i quali, arrivati sul posto, non hanno fatto altro che constatare insomma la situazione. Un caso analogo c'era stato ieri alla Tisana, vicino Udine. Anche lì un problema di autocertificazione che la mamma non voleva firmare, la bambina era stata respinta, poi arrivo dei carabinieri e è stata riammessa. Insomma, cosa ha fatto per il momento? Per esempio la Regione Lombardia ha firmato un decreto per concedere 40 giorni di recupero in Lombardia. L'assessore dice: avremmo voluto evitare interventi delle forze dell'ordine, ma c'è questo provvedimento per fare in modo che i medici possano cercare di convincere nei prossimi 40 giorni i genitori più reticenti a ricredersi. In Trentino, per i bambini non in regola con le vaccinazioni, ovvero ancora privi di prenotazioni all'ASL per effettuarle, non scatterà subito l'espulsione, ma verranno consegnati domani degli appositi moduli ai genitori. In Toscana poi le province in cui si registra il maggior numero di irregolari sono Prato, Pisa e Livorno. Insomma, occorre fare un po' di chiarezza. Per questo coinvolgo il sottosegretario all'istruzione Vito De Filippo, che ringrazio per la presenza. Grazie a lei, a chi ci ascolta. Grazie. Buonasera De Filippo. Allora, innanzitutto, lei rispetto a questi episodi che cosa pensa? Forse c'è stato caos nella comunicazione? Si possono evitare? In effetti sono episodi rispetto ad una norma che ovviamente impone di un sistema scolastico, che è quello italiano, che ha una sua complessità nelle articolazioni regionali, anche nelle competenze di regioni su sanità e scuola. Insomma, credo che la casistica che lei ha elencato è sicuramente comunque di grande attenzione. Noi stiamo approfondendo anche questi casi, ma devo dire l'impatto complessivo della norma, così come è stata accompagnata da polemiche anche molte volte un po' misteriose, mi sentirei di dire, perché ci sono stati momenti della discussione dove lo scontro era quasi tra scienza e magia, diciamo così. Nonostante questo clamore che ha rimbomba ancora la discussione politica, mi sentirei di dire che tutto sommato le operazioni stanno andando benissimo, perché i due ministeri si sono sforzati di costruire meccanismi anche i più semplici possibili. Seguiremo man mano anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sicuramente l'Italia fa un salto in avanti, perché la copertura vaccinale del nostro paese è una prospettiva di sicurezza sanitaria dei nostri figli nei prossimi anni. Sottosegretario De Filippo, leggevo anche che la sindaca Raggi, la sindaca di Roma, ha chiesto precisazioni tecniche alle ministre Fedeli e Lorenzini, che le hanno scritto una lettera dicendo che apprezzano il fatto che lei abbia chiesto ulteriori precisazioni, ha tuttavia espresso la determinazione di allinearsi alle indicazioni operative fornite nelle circolari del 16 agosto e del 1 settembre. Ma secondo lei, De Filippo, anche i dirigenti scolastici, no, che in questi giorni si troveranno a dover un po' gestire una situazione ancora un po' in divenire, nel senso che so che alcune ASL sono prese d'assalto per le richieste di autocertificazioni o di vaccinazioni fatte un po' all'ultimo. Quindi un dirigente scolastico, secondo lei, con buon senso come dovrebbe comportarsi? Come in alcuni casi di respingere i bambini, o come la Lombardia che ha dato 40 giorni un po' di percorso, diciamo così, di convincimento, il Trentino che per il momento, il Trentino Alto Adige, ha deciso di mandare delle sollecitazioni a casa, dei moduli, di non espellere o di respingere così in un primo momento, come pensa che sia meglio? Dico innanzitutto così, i dirigenti scolastici anche questa volta purtroppo sono stati chiamati a compiti che sono abbastanza complessi, perché una legge nuova che ha questo impatto anche nel sistema scolastico pretende un ulteriore supplemento di lavoro, e noi siamo qui innanzitutto a ringraziare gran parte, quasi la totalità dei dirigenti scolastici. Loro sono pubblici ufficiali, c'è una norma, e quindi le conseguenze di queste mie due affermazioni, c'è una legge, sono pubblici ufficiali, le conseguenze sono abbastanza semplici, nel senso che devono far rispettare una norma. Ovviamente ci sono strumenti persuasivi, c'è la possibilità di dialogo con le famiglie, ci sono leggeri strumenti anche amministrativi come l'autocertificazione o una semplice dichiarazione dei genitori, che sono i veri pilastri della responsabilità di questa materia, perché i bambini non c'entrano in niente sostanzialmente. I genitori che devono fare una dichiarazione ovviamente devono essere conseguenti, perché io penso che le grandi conquiste che ci sono state nel nostro paese dal dopoguerra in poi siano state tante, ma sicuramente quella della vaccinazione di massa è una delle grandi conquiste dell'Occidente, tra le quali conquiste il nostro paese è stato sicuramente protagonista. Quindi non dobbiamo tornare a un medioevo oscuro fatto di misterosofia e anche di magia. Noi dobbiamo convincere le famiglie che le vaccinazioni sono innanzitutto una sicurezza per i nostri figli, e quando tutti sono vaccinati sappiamo che saranno in luoghi sani. Il governo deve fare ancora di più per avere scuole belle, innovative, sicure, come stiamo facendo in questi ultimi anni in maniera ancora più forte. Grazie sottosegretario Vito De Filippo. Grazie, grazie a lei. Grazie, buona serata. C'è subito la viabilità. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, tra poco cambieremo argomento. Vi ricordo che le notizie principali di oggi sono intanto questo falso allarme a Barcellona, sono state riaperte le strade, si pensava a un rischio attentati vicino alla cattedrale della Sagrada Famiglia, e poi la tragedia di Pozzuoli, di cui parleremo tra pochissimo, la promoter scomparsa nel Varesotto, trovato il cadavere decapitato della donna 58enne, lo conferma il procuratore, era sepolto nell'orto dell'indagato. Gli stupri di Firenze, è stato ascoltato anche il secondo carabiniere, la ministra Pinotti dice la sospensione non basta, non ci sono attenuanti. E quindi soffermiamoci su questa tragedia pazzesca di oggi di Pozzuoli vicino Napoli, quella avvenuta nel cratere, all'interno del cratere della Solfatara, nella quale hanno perso la vita un bambino di 11 anni e i suoi genitori, prima il padre e poi la madre, che hanno cercato di aiutarlo. Si è salvato solo il figlioletto di 7 anni. I tre turisti abitavano a Meolo, nel Veneziano. Secondo una prima ricostruzione, il figlio undicenne della coppia avrebbe oltrepassato il limite del consentito del cratere, finendo in questa zona friabile da dove provengono forti esalazioni di gas, e sarebbe svenuto. Poi il padre, per tirarlo su, è stato risucchiato a sua volta. La madre ha cercato di aiutare il marito e purtroppo ha fatto la stessa fine, cadendo in questo fango bollente, in una voragine profonda a 3 metri. La Solfatara di Pozzuoli, vi ricordo, è uno dei luoghi di più forte richiamo turistico in quella zona, scientifico e anche religioso, perché si narra che lì sia stato decapitato il vescovo Gennaro, che poi è diventato il San Gennaro, insomma eletto a patrono di Napoli e della Campania. E negli ultimi tempi l'attività turistica si è arricchita di questo anche altro elemento di forte richiamo, questa suggestiva illuminazione che permette anche la sera, no, le visite nel periodo estivo. Prima di capire appunto se davvero c'erano delle barriere, ci sono dei controlli, se tutte le misure di prevenzione, di sicurezza sono adeguate, vorrei salutare Diego Vitagliano. Buonasera. Buonasera Diego. Pronto? Non c'è ancora? Lo sentiamo tra pochissimo. È un pizzaiolo che è stato testimone di quello che è successo. C'è invece il sindaco di Pozzuoli, ecco, Vincenzo Figliolia. Buongiorno, buonasera. Buonasera sindaco. Senta, a proposito appunto di una questione di sicurezza, no? Cioè, com'è possibile che sia successa una cosa del genere? Guardi, lei è stata ha dettagliato con precisione i fatti. Tra l'altro c'era una delimitazione fatta di steccare, insomma, la Solfatara fa centinaia, milioni di visitatori l'anno. Tra l'altro oggi era piena di visitatori. Cosa è accaduto o come è accaduto, io questo in questo momento, insomma, tra l'altro sono stato subito sul posto e mi sono reso conto, insomma, della tragedia immane che era accaduto qualche minuto prima. Sindaco, questa zona fa parte dei Campi Flegrei, nel senso questa vasta area diciamo vulcanica, con questa terra, questo fango bollente, no? Che diventa appunto una meta dall'inizio del Novecento, dicevo, di attrazione turistica. Però lei dice ci sono le recinzioni adeguate, nel senso, come è possibile un bambino che sfugge così al controllo e va a finire dentro? Guardi, su questo io c'è la magistratura, ci sono degli accertamenti in corso, tra l'altro l'area la magistratura. La sento poco, sindaco, mi scusi. Mi sente? Sì, ora sì. L'area è posto sotto sequestro dalla magistratura per approfondire e capire cosa è accaduto. È stata aperta un'inchiesta, ma non ci sono stati precedenti? Mi pare che anni fa non è mai successo. Episodi del genere non sono mai accaduti. Fa milioni di visitatori all'anno. Tra l'altro c'è un campeggio, c'è una struttura, diciamo, quasi alberghiera all'interno del vulcano, che è gestita da un privato. La proprietà della Solfatara è privata, e quindi, insomma, non è mai accaduto nella storia di questa città e dell'esistenza del vulcano un episodio del genere. Abbiamo raggiunto Diego Vitagliano, il pizzaiolo di cui parlavamo poco fa. Diego, buonasera. Buonasera, salve. Lei è testimone di quello che è successo? Testimone proprio no, le ripeto, come ho detto a tutti. Io sono arrivato sul posto appena poco dopo loro erano caduti. Quindi quello che ho constatato è che gli interventi dei vigili del fuoco, dell'autoambulanza, sono arrivati rapidamente, tempestivi. L'area era recintata, quindi non ci siamo potuti avvicinare. Le persone dicevano che erano cadute, le tre persone, il bimbo che usciva piangendo. Poi ho visto fino all'estrazione... L'altro bambino, quello che si è salvato, no, di 7 anni... I vigili del fuoco hanno fatto un gran lavoro, l'hanno cacciato subito, sono stati molto molto tempestivi, però purtroppo poi alla seconda stazione la polizia ci ha allontanato e ci ha fatto andare via. Io Diego Vitaliano la ringrazio per questa testimonianza. Non c'è altro da aggiungere se non capire appunto qual è stata la dinamica e come è potuta succedere una cosa del genere in un posto appunto così di attrazione turistica, di milioni di visitatori, come diceva il sindaco Vincenzo Figliolia, che saluto a sua volta. Grazie sindaco. Buonasera a voi. Grazie, buona continuazione e buon lavoro. Grazie Diego Vitaliano. Ora invece alleggeriamo così con Giovanni Capuano, che sta seguendo la Champions League. Juventus-Roma, come proseguono contro la Spagna? Giovanni? Allora, ci sono cattive notizie per la Juventus, che è andata al riposo sotto per 1-0, gol di Messi proprio negli ultimi secondi del primo tempo, dopo un primo tempo giocato bene dalla Juventus, che aveva avuto anche, l'avevamo raccontato, diverse occasioni. Messi è stato bravissimo, scambio con Suarez al limite dell'area di rigore sinistro, imparabile per Buffon. Messi che pochi istanti fa è andato a un passo dal raddoppio, ha colpito il palo alla sinistra di Buffon, anche questa volta con un sinistro dal limite dell'area di rigore, Buffon battuto, poi la palla carambolato vicino alla linea di porta, ma Iniesta non è riuscito a tradurla con un tap-in nella rete del 2-0, e siamo all'ottavo minuto del secondo tempo a Barcellona. 0-0 invece ancora all'Olimpico tra Roma e Atletico Madrid, anche qui siamo all'ottavo minuto del secondo tempo. Il primo tempo si è concluso con due clamorose occasioni nell'arco di pochi secondi. La prima l'ha avuta Nainggolan per la Roma, destro dal limite, parata di Oblak, contropiede dell'Atletico Madrid, e Koke solo ha calciato a porta praticamente vuota, c'è stato un salvataggio di Manolas, poi ancora Koke si è accesa una mischia, la Roma si è salvata. Partita comunque equilibrata quella dell'Olimpico. Dunque Barcellona 1, Juventus 0 e Roma Atletico Madrid 0-0. Nelle altre gare del girone, il Chelsea sta battendo 3-0 il Karabag, e lo Sporting Lisbona in trasferta sta vincendo 3-0 contro l'Olympiacos. A te. Grazie Giovanni Capuano, e con questi risultati direi che la giornata è riassunta almeno fino a questo momento. Ci risentiamo poi giusto come sempre alle 22 per le notizie in primo piano.